In questo caso rimaniamo così vagamente. Aspetta, prima di annunciare il prossimo andiamo a salutare Luigi da Firenze che va a scuola alle 8 e quindi sta seguendoci proprio dall'inizio. E visto che siamo in diretta, siamo entrati nell'ultima ora, mancano 58 minuti al termine di Hard and Heavy Nightmare. Speciale Hard and Heavy Nightmare 502 in diretta dagli studi milanesi di Rock FM, Max De Rio, Marco Garavelli, Simone Scava ancora con noi, c'è anche Luca Marchetti in che ha cambiato magliettina, c'ha altri scheletrini, adesso sei a posto. Però perfetto. È qui che ascolta con noi, cosa che state facendo anche voi tantissimi, numerosi, e questo ci riempie davvero il cuore di gioia. Continuiamo, diciamo, con il buon rock and roll, rimaniamo vagamente nel mondo, nell'emisfero glam, così veniva definito, soprattutto per il fatto che i gruppi in questione curavano particolarmente, oltre che il suono, anche l'aspetto, l'immagine, capelli cotonato. Se non sbaglio era anche detto l'air metal. Air metal, sì, si spendevano molti minuti prima dei concerti, prima delle session, nella cotonatura dei capelli. Un po' come Ariel ultimamente. Sì, esatto. un po' così, questo è un buon esempio, caro Marco. E allora parliamo di Los Angeles, parliamo di California e si parla di uno dei gruppi che devo dire così a onore del vero si contendeva il primato, un primato che sicuramente forse va riconosciuto ai Motley Crue, che probabilmente sono quelli che hanno raccolto maggior successo anche dal punto di vista commerciale con le loro pubblicazioni, però subito a ruota dietro i Motley Crue c'erano anche loro, i Rat, che tra l'altro si sono riformati ultimamente e risuoneranno alcune date europee, anche loro saranno presenti nel ricchissimo bill del prossimo Sweden Rock Festival. Anche i Rat purtroppo hanno dovuto patire la scomparsa di un loro componente, ma nonostante questo sono riusciti a continuare a produrre musica dopo un periodo in cui c'erano stati contrasti interni. Steven Percy sembrava, il cantante sembrava aver deciso di proseguire da solo tentando di sfruttare la denominazione Rat, poi solite cause legali, comunque tutto risolto. Parliamo di Rat e parliamo di probabilmente uno dei loro album più belli, sicuramente uno dei più fortunati dal punto di vista commerciale. L'album e il lavoro in questione si intitolava The Invasion of Your Privacy, ricordato soprattutto per la meravigliosa modella che campeggiava nella sua copertina. E non da scoprire, all'interno ci deve essere il nome della modella, però non sono riuscito a contattarla. Vabbè. Tra poco vi sveleremo anche il nome di questa bellissima ragazza che campeggiava nella compilation, nella copertina, scusate, di Invasion of Your Privacy. Intanto ce li ascoltiamo, i Rat, questa è una delle mie preferite, si chiama Lay Down. Don't breathe. Lay Down, questi sono i Rat da Invasion of Your Privacy, uno degli album più fortunati dal punto di vista commerciale per la formazione americana. Questa, come vi confessavo, è una delle mie canzoni preferite in assoluto dal loro repertorio. L'abbiamo riproposta in questa lunga nottata speciale Hard and Heavy dedicata all'hard rock e all'heavy metal, dove proseguiamo con un'altra band che è soprattutto ricordata e legata per la grande voce del personaggio in questione, un personaggio che tra l'altro è stato presente in molte produzioni, ha collaborato per un solo unico album ma molto bello anche con i Quiet Riot che abbiamo già ascoltato quest'oggi. Sì. La voce è quella di Paul Sciortino. In effetti è vero, poi lui è entrato appunto nei Quiet Riot, gli altri hanno formato un'altra band ancora, questi hanno pubblicato un paio di album, se non mi sbaglio. Un paio di album, il primo dei quali nato sotto l'ala protettrice, definiamola così, di Ronnie James Dio, che aveva subito colto le potenzialità della band e soprattutto le potenzialità di questo grande vocalist, Paul Sciortino, che tra l'altro è presente, anzi, adesso non voglio svelare troppe cose, ma lo risentiremo, sto pensando che abbiamo già deciso come chiudere questa lunga nottata, e in quella lunga nottata tra le tante voci che vi in questa ascoltare. Band militò anche Jackie Lee, che poi è entrato a far parte di Ozzy, della band di Ozzy, è vero. La band in questione, ancora non l'avevamo citata colpevolmente, è quella dei Rough Cut, questo è il nome della formazione. Questo che sto per farvi ascoltare è il secondo album, in effetti come vi dicevo il primo era stato prodotto da Ronnie James Dio e tra l'altro al suo interno più che prodotto lui li ha scoperti, gli ha fatto trovare il contratto discografico con la Warner e poi, citano, la moglie di Ronnie James Dio diventa la loro manager e per il disco d'esordio il producer è Tom Hallam dei Judas Priest. Ecco, perfetto. Questa quindi Ronnie James Dio c'entra in ogni modo, ha messo lui e la moglie. Ha messo il suo zampino, a quanto pare forse più sua moglie, non vorremmo troppo indagare sul come sia venuta questa simpatia tra i Rough Cut e la moglie di Ronnie James Dio, anche perché vogliamo troppo bene a Ronnie James Dio, e quindi ascoltiamoceli. Rough Cut, come vi dicevo, questo è il loro secondo album, il lavoro in questione si intitolava Wants You e veniva aperto da questa Rock the USA. Toys in the Attic, mi ricorda Toys in the Attic degli Aerosmith. Abbiamo scoperto anche che c'è un motivo per sì. cui ci potrebbe essere questa assonanza con Toys in the Attic. Perché se nel primo album ci sono stati altri produttori, lo zampino della, di Ron James Dio, qui c'è stato il produttore già dei Cheap Trick e degli Aerosmith, forse per quello, gli ha dato quei suoni lì alla fin fine. In ogni caso spero abbiate apprezzato la grande qualità vocale di Paul Sciortino, che come vi dicevo senza anticipare troppo comunque risentiremo prima della chiusura, anzi proprio in chiusura. Proprio in chiusura. A proposito di grandi qualità, magari non come vocalist ma come intrattenitore, come grande istrione da palcoscenico, grande carisma, stiamo parlando di Dee Snider e dei Twisted Sister. Twisted Sister che arriveranno in qualche festival a settembre, se non sbaglio, con gli Extreme, che si sono riformati, Gotthard e altre band in futuro. Il Rock of Ages. Esatto. Ho portato l'album Stay Angry e adesso, vabbè, su questo troviamo i capisaldi della loro discografia a livello di singoli, We're Not Gonna Take It, I Wanna Rock, il bellissimo Lento The Price, e poi ci siamo accorti che il pezzo che apre l'album e che dà il titolo allo stesso, cioè Stay Angry, loro stessi tra parentesi dicono dedicato ad Arnold Schwarzenegger. Come annata siamo nel 1984, facciamo solo i film. No, c'è una piccola curiosità, questo album i Twisted Sister lo hanno riregistrato, si chiama Still Angry, hanno praticamente risuonato le stesse canzoni pochi anni fa, proprio un paio di anni fa, risuonando le stesse canzoni ovviamente utilizzando una migliore tecnologia, quindi dando un suono decisamente più moderno, più attuale, però sta di fatto che le canzoni erano quelle. Questo rimane sicuramente uno dei capisaldi della loro produzione, Stay Angry, l'album Twisted Sister. Apriamo proprio con la canzone che dà il titolo a questo lavoro. Stay. Angry, questo è il pezzo d'apertura dell'omonimo album, la prima versione, perché Max appunto vi ha appena segnalato il fatto che da pochi anni hanno riregistrato anche ora questo lavoro, probabilmente utilizzando anche quasi la stessa copertina. So che tu l'hai comprato, c'è sempre Dee Dee Snider con l'osso che se lo smangiacchia. Esattamente, uguale, esattamente. Credo uguale. Che abbiano rifatto delle photo session, però chi ha visto ultimamente i Twisted Sister sa che di Snider, ma non solo, tutti gli altri componenti si ripropongono sul palco con lo stesso identico look che avevano ai tempi, anche perché purtroppo questo l'abbiamo scoperto dopo, a parte di Snider si tratta di delle gran parrucche, sì. Trucco di scena, però va bene, vabbè, è consentito anche questo. Serve. Salutiamo un po' di amici, allora Henry, sì, 90 sì. Da Zena, che ci sta ascoltando, Marco da Pisa, ancora Ale che doveva portarci le birre ma si è addormentato, si è appena risvegliato. Sì. Aspettavamo te, caro, sì, guarda, morivamo di sete. Ciao, sono Emi, il benzinaio di Peretola Nord Firenze, o Peretola, giusto? Peretola, la cena, giusto. Perfetto, che nel turno notturno sente Rock FM a manetta, quindi alza ancora di più le casse. Poi abbiamo Sentine 77, dice chissà quanta roba mi sono persa. Sentinel, Marco, perdonami, un amante dei Judas Priest, sì, ha dimenticato, si è appena svegliato, infatti, povera Tusa. Per quello Ale For Roses, grazie, dice, per questo incubo sublime, grazie per avermi accompagnato in queste lunghe ore di lavoro notturno. Questo ci fa piacere, abbiamo tenuto compagnia anche a coloro che stanno lavorando o hanno finito ormai il turno, e tra un po' anche noi finiamo il turno, questa volta mancano molto. Anche noi vediamo così vicino alla fine, e tra l'altro ovviamente stiamo cercando un po' di fare i conti sulle band importanti, su qualcosa che non poteva mancare in questa nottata, e i prossimi sono sicuramente uno di quei nomi che non potevamo non proporvi questa notte. Assolutamente, quali becchiamo con Devil Roth, quindi la formazione Mark 1 dei Van Halen, naturalmente il loro secondo album, ma alla fine abbiamo scelto, eravamo indecisi tra Dio e Bottoms Up, abbiamo scelto Bottoms Up. Abbiamo scelto Bottoms Up e ce l'ascoltiamo. We'll be right back. Non potevano mancare anche i Van Halen, questa era Bottoms Up, una serata in cui stiamo dando spazio, cerchiamo almeno di proporvi non il meglio, perché forse non è il caso di definirlo. Beh, magari come nomi sì, come nomi il meglio sì, però con le canzoni stiamo spaziando non dalle solite, esatto. Loro però non potevano mancare. Esatto, non si poteva mancare. Mi pare di capire che stiamo tornando a picchiare duro, Marco. Sì, ma neanche tantissimo, nonostante tutto, nonostante l'acciaio e il loro nome, l'incudine è sempre presente, un po' l'Eddie degli Iron Maiden come logo. E stiamo parlando di questa band, se non sbaglio canadese, giusto? Sono canadese, di Toronto, che si chiamavano e si chiamano tuttora, perché sono attivi, mi dicevi che il loro ultimo disco, il loro ultimo album è uscito nel 2006, autoprodotto, però venduto solamente tramite loro sito. Allora, questo primo album si intitolava si intitola Ardent Evil, proprio per questo l'ho scelto. Titolo. Esatto, Anvil. Tra parentesi ho scoperto che c'è anche una cover di Penny Black, classico dei Rolling Stones, ma la cosa particolare è che loro, il cantante ha questo soprannome Lips, probabilmente. Esatto. E il primo disco, cioè lo stesso, sì, era uscito nome Lips. Un anno prima. Però qualcuno si ricorda di di quella canzone Funky Town, era quel gruppo dance che si chiamava Lips Incorporated. Gli hanno fatto causa, gli hanno fatto cambiare nome. Sì. E quindi hanno scelto Anvil come nome e hanno ripubblicato questo lavoro, che viene aperto da questa canzone che si intitola School Love di Anvil. Questo è il pezzo d'apertura del primo lavoro della formazione canadese degli Anvil con School Love. Rimaniamo in Canada, li avevo promessi perché me li avevano richiesti. Stiamo parlando di questo Power Trio, forse uno dei primi prodotti del thrash, uno dei gruppi più importanti di questo genere di musica. Arrivano da Ottawa, 1979, lì si formano, terzetto, è soltanto un trio dove il batterista, come nei Triumph, canta, anche in questo caso caso si vede che è una cosa che li accomuna, le band in Canada, il batterista che è difficilissimo cantare e suonare la batteria, per quello che Mox si concentra solo sulla batteria, eccetera. Questo album, nonostante l'incisione non sia il massimo, il gruppo è stato scoperto da Mike Varney, che aveva un'etichetta dove ha fatto incidere una marea, ha scoperto una marea di gruppi e di chi, soprattutto di chitarristi, che era la Shrapnel Records. Pubblicarono questo loro primo album del 1983, diventa ed è tuttora un must, soprattutto anche nel titolo e nel brano, Heavy Metal Maniac Exciter. Dal Canada, il thrash metal con Heavy Metal Maniac, a titolo dell'album, titolo anche del pezzo. Ora, guardando i dischi, ci siamo dimenticato di questo, ci siamo dimenticati di quest'altro, manca meno di 30 minuti, Max, però loro non possiamo non mettere. Abbiamo messo due pezzi degli Iron, non si può mettere l'altro gruppo più importante della New Wave British Heavy Metal inglese. Abbiamo così tanto celebrato, giustamente, la New Wave British Heavy Metal, che sicuramente ha avuto una importanza fondamentale in questo tipo di suono, che ovviamente loro che sono dei paladini di questo genere non potevano mancare. Stiamo parlando dei Saxon, dicono che arrivano da una contea dello Yorkshire, anzi sicuramente è così, non lo sapevo, una band che all'inizio si chiamava Son of the Beach, poi hanno detto non era il periodo del punk, meglio non cambiamo nome, anche l'etichetta discografica ha detto cambiate nome che è meglio, è uscito Saxon, primo album, produzione pessima, non andò molto bene e poi arrivò questo, Wheels of Steel, la facciata 1 di quest'album, vede Motorcycle Man, Stand Up and Be Counting, 747, Stranger in the Night e Wheels of Steel, questa è solo la facciata. Noi abbiamo scelto la canzone numero 1, quella che apre l'album, la dedichiamo a tutti i motociclisti, i bikers, Motorcycle Man, Saxon. Psycho Man, secondo album, 1980 per la formazione dei Saxon. Salutiamo il nostro amico, la nostra amica Caterina, che è all'ascolto da tempo, Luigi da Firenze ancora e Elena, esatto, anche Elena. Torno adesso invece da suonare, come finire in bellezza se non con Rock FM, Tiziano sempre da Firenze, quindi non solo quella città, Genova, la Toscana in genere, Milano eccetera. Grazie per questa massiccia dose di metallo e hard rock. Il il cast da Genova, quindi un grazie naturalmente di cuore a tutti coloro che ci stanno seguendo parzialmente da solo un'oretta oppure già dalla mezzanotte quando abbiamo iniziato il tutto, e siamo entrati ormai nell'ultima mezz'ora. Abbondantemente nell'ultima mezz'ora, sono le 5.36, questo giusto per ricordarvi che siamo in diretta, questo è lo speciale Hard and Heavy Nightmare, la notte dedicata all'hard rock e heavy metal. Marco Veravelli, Max Deriu, Simone Scavo e Luca. Luca Marchetti. Luca, di che ci sei? Perché non... Eccolo, c'è. Il nostro Witching Hour, c'è. E allora, come dicevamo, ci stiamo alternando fra l'heavy metal e l'hard rock. In questo caso ci occupiamo di hard rock, ovviamente. Ci occupiamo e torniamo a occuparci del suono che arriva dagli Stati Uniti d'America, anche se, lo diciamo con un po' di orgoglio, c'è una forte matrice italiana dietro il grande successo di questa band e di questo personaggio. Stiamo parlando ovviamente di Jon Bon Jovi. Jon Bon Jovi con i suoi Bon Jovi, sicuramente uno dei gruppi di più grande successo per quanto riguarda l'hard rock americano, una formula particolare, speciale, quella che è riuscita a trovare nel unire il suono rock ma alla melodia che probabilmente, questo sì, gli deriva dalle sue origini italiane. Allora, Bon Jovi lo ascoltiamo in uno dei suoi primi lavori, non era in effetti il primo era omonimo, se non ricordo male, questo era il secondo album, si intitolava 7800 Fahrenheit, questo è il titolo dell'album, e questo era uno dei singoli che diede grande successo, grande airplay, come si dice con termine internazionale. E allora, eccoli, anche loro non potevano mancare, Bon Jovi in questo speciale hard rock heavy metal Hard and Heavy Nightmare, questa è Only Lonely. Oh! Doveva ancora arrivare il grande successo per loro, sarebbe arrivato puntualmente, ma già prometteva bene anche questo 7800 Fahrenheit. L'album dei Bon Jovi che abbiamo preso in considerazione, l'anno era il 1985, uno dei singoli di successo era questa Only Lonely. E adesso però c'è un'altra delle tante chicche che vi abbiamo regalato questa sera. Che abbiamo messo, sì, in effetti questa sera. Andiamo innanzitutto a un super gruppone con Eric Martin alla voce, che quando, visto che l'abbiamo messo in poc'anzi, se ne andò, David Lee Roth, lui era praticamente quasi pronto. Doveva esserci lui invece di Sammy Hagar. Poi alla fin fine è successo qualcosa, è entrato Sammy Hagar come cantante dei Van Halen. Però Eric Martin, Paul Gilbert, ex Racer X, grande chitarrista, Billy Sheehan, che ha lavorato con mezzo mondo, altro grandissimo bassista, e Pat Torpey alla batteria. Veramente un super gruppo, hanno avuto un grande successo in America e soprattutto in Giappone, dove hanno pubblicato una marea di album live da un loro concerto del 1993. Andiamo ad ascoltare questo medley, le canzoni magari ce le scrivete voi come si intitolano. si suonano, eh? Pezzi non loro, ma si suonano bene. Woman from Tokyo dei Deep Purple. E poi il pezzo degli Who, Bubble Really, in chiusura di questo live giapponese per il Mr. Big. C'è da dire che anche con i pezzi loro se la cavano bene. Sì, comunque, no, sono grandissimi musicisti. Ho 10 minuti, Max. Un grande gruppo che sta arrivando veramente al finale. Abbiamo 2 dischi. Abbiamo un paio di canzoni ancora da farvi ascoltare. Una che era già stata decisa all'unanimità, appena l'ho detto va bene quella. Sì, sì, sarebbe stata la sigla, e sarà anzi la sigla di chiusura. E invece per avvicinarci a quella che è la sigla di chiusura. No, non sono i Burzum, mi stai guardando, non sono i Burzum, lo sapevo. No. Un po' come fossimo in discoteca, la stiamo vivendo un po' così, come la chiusura di una lunga serata. Esatto. Di solito si tende comunque a rallentare i ritmi e a così avvicinarsi alla chiusura per come agevolare la vostra uscita verso casa. Ma in questo abbiamo caso messo 2 acustici in tutta la nottata, è vero, quindi ce lo possiamo permettere. Tra l'altro questa canzone è un po' particolare, parliamo del gruppo intanto, che è speciale anche per la sua provenienza, visto che arrivano dalla Danimarca, esattamente da Copenaghen. Si chiamano Disneyland After Dark, ma meglio noti come DAD. Un paio di album sicuramente molto molto validi, quello che precedeva questo che sto per proporvi, che si chiama Risky Roll e No Fool Left for the Pilgrims. Questi erano i 2 titoli che sicuramente hanno raggiunto il maggior successo dal punto di vista commerciale anche nel nostro paese. E ricordo i D&D con un loro concerto al Rolling Stone di Milano, che veniva offerto gratuitamente, cioè acquistando il biglietto degli Aerosmith che avrebbero suonato la settimana dopo, si poteva assistere gratuitamente a questo show. Perché sennò poverino non andava nessuno, esatto. Però fortunatamente la gente arrivò e poté apprezzare comunque il loro show, anche perché loro erano comunque dal vivo molto molto bravi, particolari. Il bassista suonava un basso a 2 corde, una cosa davvero molto molto speciale, molto speciale, molto rock and roll. Insomma, con i D&D ci avviciniamo alla chiusura, che arriverà tra poco quella ufficiale. Io mi sono permesso, anzi in effetti è 6 ore che dico questa cosa, perché in effetti vi ho fatto ascoltare molte cose che riguardano i miei gusti personali. Anche in questo caso ribadisco questo concetto, sono molto legato e affezionato a questa canzone, che è una sorta di ballata acustica che forse non rende al meglio l'idea del suono dei D&D, però mi piaceva come conclusione di questa lunga nottata, anche perché mi lega a una persona speciale che spero che in questo momento sia ancora sveglio e che così ci ha visto insieme per tanti anni, e sto parlando del mio fratello Davide Mozzani, che ciao, è Davide. Con il quale questa canzone ci lega in maniera particolare. Spero tu sia ancora sveglio, la voglio dedicare davvero a te. Questi sono i D&D, sono in chiusura, siamo in chiusura di questa speciale Hard and Heavy Nightmare. Il brano si intitola Laugh and a Half. I learned politeness on my mother's knee. I learned by her brightness my number of friends should increase. When I think about the things I've done, I laugh out loud to no one, yeah, to no one. Cause it's so hard to meet the eyes that I see when I try to open up my heart. There's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile there's a laugh and a half. But I became honest, Mr. Mistaken. In spite of the curves my smile was making, bumpers and kickers in one big stream. I grew up in a life-size pinball machine. Yeah, they're mean, cause it's so hard to meet the eyes that I see when I try to open up my heart. There's something inside me and I know it's cool, but understanding is misunderstood. At the end of a smile there's a laugh and a half. On my behalf, there's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile there's a laugh and a half. I try to feel some silence, cause the silence feels so long. I knew the ice was getting thinner, but I kept skating on. My mother threw me into this world as a winner, but by the light of the yellow beer, they tell jokes I'll never get to hear. I might be having, there's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of the smile, there's a laugh and a half. Something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile, there's a laugh and a half. At the end of a smile, there's a laugh and a half. At the end of a smile, there's a laugh and a half. At the end of the smile there's a laugh and a half. Siamo alla fine di un sorriso. Mi auguro almeno siamo riusciti a procurare questa sensazione, questo benessere, questo piacere di condividere con noi una lunga nottata. Abbiamo iniziato a mezzanotte, mancano pochi minuti alle ore 6 e abbiamo mantenuto fede ai patti, rigorosamente in diretta fino esatto. alla fine. E rigorosamente svegli. Rigorosamente svegli, nessuno di noi a parte... Lui solo un caffè. Solo un caffè, basta. Si è dopo tre fette di salame, no, quello no. No, nemmeno. La focaccia genovese. No, la focaccia, si è avventato. Due, esatto. Anzi, a questo proposito ringraziamo anche gli amici che ci hanno sostenuto dal punto di vista... delle vivande. Vivande, beveraggi e alimenti ottimi. Tra l'altro andiamo ancora con un po' di saluti, adesso non ricordo Marco dove tu sei siamo arrivato. Arrivati un po' più in su forse. Un po' più in su, abbiamo già salutato Walter da Genova, grazie. Okay. No, molto bello questo, se qualche mese fa mi avessero detto che avrei fatto mattina ascoltando hard rock e metal, probabilmente non ci avrei creduto. Questo è il potere di DJ appassionati. Grazie Minty. Lo prendiamo davvero come un complimento. Esatto. Grazie Minty, grazie Andre invece che ha vissuto con noi tutta questa notte, grazie per la splendida serata e grazie anche a questo amico Taxinaro Mario. 3668 presumo sia il numero del taxi o il numero della patente davvero rocker? No, 3000 mi sanno ancora. Un po' troppo. Però, sì. Perché chiudere una radio unica come la vostra? Questo è un mettere un dito nel... Nemmeno noi lo sappiamo. Chi mi darà ora tutti quei giorni magici, momenti da pelle d'oca, suonato con la musica Hard and Heavy nel sangue, che sensazioni, mi chiedo quanto ci perdiamo senza Rock FM. Beh, insomma, noi siamo un po' di parte, però dobbiamo dire molto, tanto, e siamo convinti assolutamente. Grazie a Guy da Milano, saluti a Eros, tassista di Carpi, un buongiorno a tutti, sono arrivato al lavoro adesso. Vabbè, allora si è perso tutto praticamente, tutto. Caro Eros. Ma va bene così. Allora, che dire Max, un abbraccio, perché tu sei di là, se non tutti e quattro, fine concerto, abbracciamo e ringraziamo ci inchiniamo. Ci prostriamo davanti a tutti coloro che ci hanno seguito dall'inizio, totalmente, grazie di cuore. Totalmente o parzialmente, non fa differenza. Non importa, anche solo un minuto, una sola canzone, magari anche questa che è l'ultima, grazie veramente a tutti voi, 5:59 minuti primi, arriviamo addirittura d'arrivo. Marco Gravelli vi ringrazia e vi saluta. Luca Marchetti vi ringrazia e vi saluta. Simone Scavo vi saluta e vi ringrazia. E anche Max De Rio, sono anch'io qua fino alla fine e tra l'altro vi devo dire che questa lunga nottata speciale Hard and Heavy Nightmare aveva sicuramente un inizio certo che era la Carmina Burana e un finale certo che avevamo già deciso. Tutto quello tutto che avete in mezzo, sentito l'abbiamo in mezzo a questa scalette zero, l'abbiamo improvvisato. L'abbiamo improvvisato, ma era giusto così. Era bello così. Era un programma fatto col cuore, speriamo che sia arrivata questa nostra sensazione. La chiusura è ovviamente una celebrazione del mondo hard rock e heavy metal che nonostante qualcuno ancora abbia visioni o pensieri brutti, sbagliati, sporchi e cattivi, esatto, noi non siamo sporchi, non siamo brutti, non siamo ma brutti sì, forse, quelli cattivi sì. Neanche più di tanto, non sgozziamo i bambini, no, non mangiamo, ci vogliamo bene, non beviamo il sangue, noi crediamo nel rock and roll e continuiamo a crederci anche dopo il 31 di maggio e probabilmente nel prossimo pezzo, anzi sicuramente più della metà degli artisti che vi abbiamo presentato erano tutti insieme per registrare questo brano che si intitola Stars, stelle, un progetto particolare, un progetto di beneficenza, capitanato dalla mente di Ronnie James Dio, anche lui, vedete, veramente questo grande uomo. Le stelle che tra l'altro, perdonatemi cari amici, ma se guardate le vostre spalle, le stelle ormai non ci sono più, ad albeggiare, esatto. Ed è giusto così. Questo però è l'ennesima dimostrazione che anche chi suona hard rock, chi suona heavy metal, ha un cuore sensibile, anzi noi pensiamo, facendone parte, di avere una sensibilità ancora più sviluppata, ancora maggiore rispetto agli altri, e quindi abbiamo deciso di chiudere questa lunga nottata dedicata all'hard rock e heavy metal proprio con il progetto Iranade, nato dalla mente di Ronnie James Dio e con il quale si cercava di dare sostegno alle popolazioni africane che, bambini africani, esatto, avevano grossi problemi di, purtroppo li hanno ancora, purtroppo ce l'hanno ancora, sì. Non è servito, o quantomeno è servito parzialmente questo progetto. In ogni caso ci piaceva chiudere così, quindi grazie ancora, grazie a tutti, cuore. Ci risentiamo ovviamente lunedì con i nostri programmi canonici, Marco ovviamente dalle 9 a mezzogiorno, l'amico Luca Ucinauer, 31, lo ribeccate, sì, il 31 ci sarà, anzi è vero, approfittiamo anche per ricordare questo periodo che stiamo vivendo con Rock FM, che culminerà nella nostra ultima settimana, che sarà costellata da tantissimi ospiti nazionali e internazionali, non solo musicisti, anche artisti, giornalisti, esponenti del mondo della radiofonia che hanno deciso di venirci a trovare, ci verranno a trovare in quell'ultima settimana, e soprattutto vogliamo ricordare la nostra ultima non stop di diretta, 24 ore di diretta che segneranno la fine del progetto e del sogno di Rock FM. Partiremo alle ore 18 di venerdì 30 maggio e chiuderemo sabato 31 maggio ovviamente alle ore 18, e quindi aspettiamo. E dalla mezzanotte del 30 spegnete la radio perché c'è Luca nei suoi 30 minuti, hai capito? Quindi li avvisiamo, ma tutti avranno mezz'ora, ci saranno praticamente, se non tutti, quasi tutti i DJ che hanno fatto la storia di questa emittente, ed è giusto così. È giusto così. Ci sarà anche Simone, quindi ci saremo tutti di nuovo. Alla il grandezza. Pezzo in arrivo. Oh, andiamo a dormire. Ciao. Andiamo a dormire, buonanotte a tutti, corna al cielo e fottuto rock and roll. Yeah.